Ti fa più paura la violenza o la solitudine? La violenza. Che tipo di violenza? Più fisica che psicologica. Sei mai stato violento? Associa una parola al termine violenza. Alla violenza. Una parola? Carne. Associa un oggetto alla parola violenza. Bastone. C'è differenza tra uomini e donne, secondo te? No. Ti senti uomo, donna o qualcos'altro? Mi sento uomo. Associa un aggettivo alla parola uomo. È un aggettivo alla parola donna. Uomo, Forza. donna. Sicurezza. Pensi sia possibile che un giorno tu scopri di essere donna, di sentirti donna? Domanda. Pensi che sia possibile che un giorno accada questo in te? Ti spaventa? Ti sei mai sentito vulnerabile in quanto uomo? In che senso? Sì. Nel senso che magari non c'era quella forza. Quindi di non essere all'altezza nel mio immaginario a rispettare questa mia idea di uomo. Quindi c'è il concetto di debolezza, la dualità. Ti sei sentito quindi debole Sì. in quanto uomo? Sì, esatto. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Bellezza. Guardare la bellezza e poi mi suscita chiaramente se il corpo è nel mio immaginario di una donna, mi suscita, non so, corteggiamento di quella donna per ottenere il suo corpo, per assentire il suo corpo. Quindi il corpo di una donna nudo rispetto al corpo di un uomo nudo ti suscitano cose diverse? Sì, all'impatto bellezza, cioè riconoscere la forma del corpo. Poi, se ci sto più tempo a riflettere, poi può capitare che c'è quella sensazione, l'istinto animalesco, verso una donna, su un uomo non mi succede. Cosa o chi ti fa arrabbiare? Cosa o chi ti farà arrabbiare? Il cosa mi fa arrabbiare? È la mancanza di attenzione nei miei confronti. Il chi non Cosa rispetta fai? questa prima cosa. Ok. Cosa fai quando sei arrabbiato? Mi chiudo completamente come forma di protezione. Hai mai paura? Di Sì. cosa? Ti Di non essere all'altezza. hai mai subito violenze o soprusi? Di nessun tipo. Se ritorniamo alla distinzione tra psicologico e fisico che avevo introdotto prima, fisico no, psicologiche sì, da una donna. Quante volte in un mese, in una settimana, in una vita? Una volta fino adesso. Dove e perché? Il perché per amore. Il dove come luogo fisico. Cioè il dove in che senso? Come luogo? Distanti. Non c'è Con il una luogo fisico. parola, o scusami, No, con scusa. una o poche parole, qual è secondo te il confine della persona? O Con una o due parole? poche, O poche puoi un parole? po', certo, Qual è il divagare confine? della persona. Il confine della persona. Non lo visualizzo. Cosa ti fa sentire protetto e sicuro? Sentire protetto e sicuro è quando mi sento considerato e mi sento forte. Che colore ha quella sensazione? Blu. Ok, grazie.